pioggia, con la neve e con il vento, non perdete questo evento. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Che sconforto, care ascoltatrici, cari ascoltatori. Mi dispiace accogliervi così, diciamo, questo slancio di ottimismo, di allegria e di gioia, ma diciamo che un po' tutta la congiuntura è sfavorevole da vari punti di vista. Intanto a Milano piove, diluvia, e quindi, a proposito, non ci sono più le mezze stagioni, si era promessa quasi l'estate, è ritornato un po' di autunno, ancora precedendo quindi l'inverno. E poi, che dire della situazione politica e di quello che succede nel mondo, tra il mondo e l'Italia? Dicevo che c'è poco da stare allegri. Cercherò naturalmente con impegno, diciamo, di sostenere un po' il vostro umore, voi sostenete il mio, e vi do da subito il numero verde 800 24 00 24, numero verde per commentare, come sempre sapete, insieme le notizie della settimana, che naturalmente non mancano anche in questi giorni. Siccome abbiamo iniziato con un certo ritardo, sono le 14:08 minuti e vari secondi, pregherò tutti coloro che intervengono di essere piuttosto sintetici, perché abbiamo avuto il GR naturalmente per aggiornare. È un carico di pubblicità eccezionale, perché questo programma sta andando veramente a gonfie vele, quindi anche l'opinionista estemporaneo, che saluterò tra poco, prego di essere il più sintetico possibile. Si possono esprimere in questi momenti drammatici anche dei concetti molto sintetici ma molto incisivi. Quindi vi dicevo sulle notizie, insomma, di questi giorni: l'attentato di Boston, naturalmente, poco fa festa nella città americana perché è stato preso anche il secondo attentatore, il primo lo sapete è morto, due fratelli ceceni, e adesso naturalmente sarà interrogato, e Obama ha detto sì, questo passo è fatto, però adesso cerchiamo di capire se c'è dietro una grande organizzazione internazionale integralista oppure se erano due folli. Quindi c'è ancora da capire questo. E fra l'altro Obama è rimasto naturalmente, legittimamente, comprensibilmente estremamente amareggiato questa settimana del fatto che il Senato americano ha bocciato quell'accordo che si stava costruendo tra repubblicani e democratici sul maggior controllo delle armi. Certo, si può dire che in realtà hanno usato delle pentole a pressione con dentro chiodi, eccetera, ma quella delle armi è una cultura così radicata negli Stati Uniti, e ogni due per tre, insomma, avete visto, arrivano nelle scuole, sparano, ammazzano così a vista e in modo arbitrario. Per cui è un problema che resta, e nonostante tutto questo la lobby delle armi è riuscita a battere questo accordo storico che si stava facendo. Quindi si può capire tutta questa amarezza. Poi sapete, in Texas che è esploso un impianto di fertilizzanti con decine di vittime, insomma, un po' di guai per gli Stati Uniti. Ma anche noi abbiamo naturalmente i nostri guai con questa corsa al Quirinale, che non si sa più come definire, una specie di fiction drammatica, ecco. Sui toni drammatici sapete che dopo tutte queste varie bocciature di candidature, eccetera eccetera, il partito di Bersani è completamente allo sfascio, si sta sfaldando, non si capisce più con queste guerre intestine che fine farà. Insomma, si fanno guerra tra di loro, e a questo punto come potrà sopravvivere? Ci saranno delle scissioni? Restano le grandi incognite. Intanto cerchiamo di capire se veramente si arriva a un Napolitano bis. Cioè, mi sembra possibile, si dice bis a teatro, davanti a uno spettacolo. Napolitano ha governato bene, ma si può richiedere a un presidente quasi novantenne di stare ancora un po' di tempo, perché c'è questo vuoto istituzionale, politico, anche neuronico, possiamo dire. E poi, fra i guai, naturalmente, la crisi economica che insiste, sapete, anche il processo per l'omicidio di Garlasco, che la Cassazione ha annullato la soluzione di Alberto Stasi, quindi il processo è da rifare. Poi in India continuano le violenze, gli stupri. Negli ultimi due giorni una bambina di 6 anni stuprata e buttata in una discarica strangolata, e poi un'altra di 5 anni stuprata e mutilata, ma la polizia cerca di insabbiare tutto. È un paese dove io direi di non metterci più piede. È vero che le cose succedono anche in Italia, perché solo questa settimana, allora, a Pesaro un'avvocata è stata sfigurata con l'acido da un sicario mandato dall'ex di lei. Anche lui è avvocato, c'è trasversalità, non è che c'è una classe in particolare, una classe sociale, una tipologia di uomo, no, è proprio molto trasversale, di età, di estrazione sociale, di professione. Quindi a Pesaro l'avvocata sfigurata che probabilmente perderà la vista. Poi in Veneto invece lui, quarantenne, ex, spara a lei 22enne perché lei non voleva più stare con lui, la raggiunge in auto e le spara un bel colpo in testa. E lo stesso è successo a Roma, dove un 43enne ha inseguito la ex moglie con la macchina, proprio come un film, no, di inseguimento di macchine, l'ha avvicinata e l'ha sparato 9 colpi attraverso il finestrino e via. Vi sembra questo un paese? Io mi chiedo, ci meravigliamo degli Stati Uniti, ma in Italia che cosa sta succedendo da troppo tempo? Un femminicidio senza fine. Tra l'altro, pensate la ironia della sorte, no? Si dice dell'America. Questo che ha ucciso l'ex fidanzata, che aveva 22 anni, lui più di 40, dopo averla perseguitata, dopo che lei è stata dalla polizia, lo ha denunciato, non solo non si è fatto un granché, ma lui poco dopo è andato a fare la richiesta alle autorità per ottenere il porto d'armi, gliel'hanno dato e lui si è comprato la pistola un mese fa. Vi rendete conto che non c'è speranza? Questo è un paese senza speranza, e a parte le caratteristiche del nostro paese, mi chiedo, a questo punto cosa ci possiamo chiedere? L'integralismo è una patologia maschile insieme al delirio di onnipotenza? Questa storia del cromosoma Y, quello maschile, teoria sostenuta anche da molti scienziati, può essere vero che ha perso la gambetta della X, quello femminile, è rimasto menomato? C'è qualche problema? A molti uomini questo dà alla testa? La domanda rimane sospesa, ma direi che possiamo anche dirci perché anche questa settimana non ci sono più le mezze stagioni. Non ci saranno più le mezze stagioni, ma neanche le intere. Andiamo sul meteorologico. Abbiamo detto che a Milano piove dopo che c'erano 27 gradi 2 giorni fa. Beh, c'è stata anche la nebbia a Palermo in questi giorni. Si capisce veramente più nulla. Non abbiamo più certezze in nessun campo, a parte la certezza che ogni settimana 2 o 3 donne vengono fatte fuori. Per il resto, insomma, tutto è un po' scombinato. Ma adesso, signore e signori, è il tempo di presentarvi l'opinionista estemporaneo di oggi. Luca Ricolfi. Buongiorno. Buongiorno, è un po' meditabondo anche tu, stavi pensando, diciamo, alla congiuntura sfavorevole o a cosa, Luca? Ma io, occupandomi soprattutto di economia e di politica, sto pensando al non governo che verrà, essenzialmente, più che al Presidente della Repubblica, che forse verrà e comunque in qualche modo andrà eletto. Luca Ricolfi è sociologo e professore ordinario, attenzione, di psicometria alla Facoltà di Psicologia dell'Università di Torino. Questa psicometria, mi fa venire in mente, misuri lo spessore psicologico dei politici e politicanti? C'entra questa psicometria? Psicometria in realtà è un raggruppamento disciplinare che contiene tante materie, tutte molto tecniche e quantitative. Io in realtà insegno analisi dei dati. La parte psicometrica è la cosiddetta misurazione mentale, cioè come si studiano, per esempio, gli atteggiamenti, i tratti di personalità, le percezioni. Ecco, questa parte si fa anche con strumenti quantitativi e io insegno come si fa. Volevo chiedere intanto, Luca Ricolfi, questo è un paese, io leggevo che c'è bisogno di 6.000 pizzaioli perché mancano coloro che fanno le pizze. Mi sa che è anche un paese dove mancano le badanti e i badanti, è possibile? Ma assolutamente sì, noi stiamo diventando un paese di tipo semischiavistico, a mio parere. Te lo dico, scusa Luca, era la mia solita ironia, anche se ci fermiamo un attimo, lasciamo un attimo di sospensione su questa domanda, perché c'è in collegamento la nostra inviata Raffaella Calandra. Raffaella? Sì, Roberta, buongiorno a te. Buongiorno a te. Allora, c'è la sentenza allora sul delitto di Avetrana, giusto? Sì, da Taranto, dopo 4 giorni di una lunghissima camera di consiglio e 32 mesi dopo l'uccisione di Sara, la Corte d'Assise di Taranto ha appena emesso la sentenza ed è ergastolo per Sabrina e Cosima. I giudici hanno considerato la cugina di Sara e la zia, appunto Cosima, responsabili della sua morte, quel 10 agosto del 2010, sono state condannate anche all'isolamento per 6 mesi e la sentenza dovrà essere affissa anche nella città di Taranto, quindi una condanna al massimo della pena per Sabrina e Cosima, mentre invece per il padre e lo zio, per il padre di Sabrina e il marito di Cosima, ossia Michele Misseri, la pena è di 8 anni, quindi un anno in meno anche della richiesta della procura per l'accusa del solo concorso nella soppressione di cadavere. Delle grida in aula abbiamo sentito al momento appunto della lettura di questa sentenza, sentenza complicatissima per uno dei casi più controversi e anche mediatici degli ultimi tempi, perché come ricorderete è stato fatto, scandito da confessioni, a cominciare da quella di Michele Misteri, che aveva fatto ritrovare il corpo di Sara, poi di ritrattazioni e di reciproche accuse. Sabrina e Cosimo hanno sempre proclamato la loro innocenza, l'una anche con plateali lacrime in aula, l'altra rimanendo sempre in silenzio, ma invece i giudici non le hanno credute e le considerano responsabili del delitto della quindicenne Sara Scazzi, appunto nella città di Avetrana, il cui corpo fu trovato poi in fondo ad una cisterna dopo 42 giorni di inutili ricerche. Raffaella, senti, però è una sentenza comunque, seppure molto, molto pesantissima, al massimo di primo grado, no? Per ora. Certo, una sentenza di primo grado che però dà il massimo della pena a Sabrina Cosimo. Ovviamente ci saranno l'appello e ovviamente ci sarà la Cassazione e ovviamente fino all'ultimo grado resta la presunzione di innocenza, però considerando anche il tipo di processo che è stato, questa lettura dei giudici di primo grado dà una precisa appunto lettura dei fatti, cioè proprio perché sono stati così controversi e proprio perché soprattutto il famoso zio Michele ha più volte ritrattato la sua versione, dall'accusa ad aver accusato poi la figlia, ad aver di nuovo ritrattato fino ai memoriali, alle lettere pubbliche. Ecco, c'è stata anche questa contaminazione tra l'aula del tribunale e la dimensione mediatica che è entrata e ha confuso un po', almeno nell'opinione pubblica, le opinioni su quello che è effettivamente stato, mentre i giudici non sembrano avere alcun dubbio nel dare il massimo della pena alle due donne, a Sabrina e Cosima, che appunto saranno anche per in isolamento per 6 mesi. E la sentenza, come dicevamo, sarà affissa anche a Taranto. Ovviamente a Cosima è stata anche tolta la potestà genitoriale. Tutto questo è avvenuto alla presenza chiaramente della famiglia di Sara Scazzi. La mamma di Sara è la sorella di Cosima Serrano. Il tutto si è consumato nel chiuso di questa famiglia in questo paese della provincia di Taranto, Avetrana, che come ricorderanno i nostri ascoltatori fu letteralmente invaso nei giorni appunto della ricerca della ragazza e poi giorni dell'inizio delle indagini, anche da ogni genere di attenzione, non solo mediatica, ma anche turistica, diciamo. Sì. Grazie Raffaella Calandra, grazie. Questa allora da Taranto, da Avetrana, la sentenza, abbiamo sentito appunto drastica, pesantissima, sulla zia e la cugina della povera Sara Scazzi. Intanto, mentre aspettiamo aggiornamenti invece di politica, ti volevo chiedere, Luca Ricolfi, dicevo, badanti nel senso che questa classe politica non è stata capace di esprimere un governo, di gestire la cosa pubblica, le emergenze economiche, e quindi c'è voluto il governo tecnico napoletano, ha dovuto incaricare Monti. Adesso che si è tentato con varie votazioni di esprimere un presidente della Repubblica, invece si corre ancora dal papà, dal nonno, non so più come chiamarlo, ma nel senso rispettoso napoletano, per dire aiutaci tu, fa qualcosa tu, è possibile? Dove sta andando questo paese? Ma mi viene da dire che anziché il nuovo che avanza abbiamo il nonno che avanza, perché qui tutti quelli che vengono proposti da Rodotà, Marini, Napolitano, tutta gente che ha 80 anni o più, insomma. Luca, perdonami, oggi è giorno di continue interruzioni perché ci sono continue aggiornamenti, notizie, cose che succedono. C'è Betta Fiorito da Roma, cara Betta, c'è qualche novità quindi su Napolitano, accettato o non accettato il nonno che avanza, come diceva Luca Ricolfi? Allora, cara Roberta, ti posso dire che Napolitano ha detto sì alla candidatura bis, quindi si scioglie il nodo Quirinale e a questo punto ci sarà la votazione questo pomeriggio, quindi si parla del sesto scrutinio e il sesto scrutinio praticamente darà Napolitano Presidente della Repubblica. Sappiamo però che il Presidente della Repubblica in carica, quindi si va verso Napolitano bis, prima storia nel la Repubblica Italiana, potrebbe anche già aver imposto le condizioni per una formazione di un governo di larghe intese che porti a termine il lavoro dei saggi. Addirittura si parla di un napoletano pronto già a indicare il futuro premier e quindi ad andare subito alla formazione di un nuovo governo. Entro questa sera quindi, probabilmente, perché adesso a questo punto il condizionale, visto quello che è successo successo ieri è d'obbligo, si andrà verso l'elezione, la rielezione di Napolitano, che ha detto sì alla candidatura. Sono disponibile, ha detto il Capo dello Stato. A te, Roberta. Grazie Elisabetta Fiorito. Che giornata, ormai questo aggettivo convulsa, diciamo, è proprio all'ordine del giorno e dell'ora e del minuto. Quindi Luca Ricolfi, io all'inizio dicevo c'è bisogno non solo di pizzaioli ma anche di badanti, perché la classe politica italiana ha bisogno di badanti, nel senso di qualcuno che si occupi di loro, perché non sono più in grado. Napolitano ha detto di sì dall'alto dei suoi anni, fra l'altro, e naturalmente della sua esperienza, delle sue capacità, però il dover richiedere questo bis, ci ricordava Betta Fiorito, la prima volta nella storia. Prosegui pure il tuo ragionamento davanti a questo sconforto, a questo sconcerto, non so più come definirlo, e chiedo anche alle ascoltatrici e ascoltatori di intervenire. Siete contenti di questa soluzione? 800 24 0024. Luca. Ma mi sembra una sconfitta gravissima per la politica. Vuol dire che, cioè, chiedere a Napolitano di ricandidarsi, di essere rieletto, significa autogiudicarsi del tutto non all'altezza di governare questo paese. Quindi io la vedo come una cosa molto negativa la rielezione di Napolitano, non per Napolitano, che in realtà, certo, va benissimo, però l'idea che in Italia non ci sia nessuno che può prendere il posto di Napolitano non è credibile. Quello che si dimostra invece è che non c'è nessuna classe politica, non c'è una classe politica che è in grado di mettersi d'accordo su una persona che non è che deve avere dei requisiti per cui ce ne sono una nell'universo. Solo tu nell'universo. È necessario di avere una persona che abbia una certa esperienza, una certa affidabilità. Conoscenza della macchina dello Stato. Tra l'altro di nomi ce n'erano almeno 4-5 che potevano andare bene a tutti. Io continuo a essere stupito che, essendoci 4-5 nomi di persone che erano compatibili con tutti, sia con il Movimento 5 Stelle che con il PD che con il PDL, questi stai nomi pensando stati a Rodotà? Ma anche la Cancellieri, no, per esempio, Rodotà io volevo una donna a tutti no. i costi. Certo, no, Rodotà non piace al PDL. No, scusami, Rodotà civica. Assolutamente no, è un candidato di parte. Ovviamente sarebbe stato un candidato che avrebbe... Ma chi è che non è di parte, Luca Ricolfi, alla fine? Io dico sempre nessuno al sesso degli angeli, solo gli angeli. No, ci sono dei candidati che sono non offensivi per nessuna parte. Cancellieri? Politica. Una donna finalmente poteva essere cancellieri, proposta cancellieri da Scelta Civica. Poteva andare benissimo, anche se ha un limite, cioè che non è una persona particolarmente conosciuta. Cioè esistono anche dei sondaggi sulla Presidenza della Repubblica e nei sondaggi c'è una persona che sta sempre in testa da anni. Bonino, come sai, Emma Bonino. Emma Bonino. L'avrei voluta con tutta me stessa, però allora, a quanto pare il nome manco di Emma stavolta. Bonino è sempre stato tenuto nel frigorifero anche dai mass media in questo periodo. Non si è mai Ma non piaceva ai cattolici, perché non piaceva ai cattolici? Sempre questa un po' la manfrina, no? Il leitmotiv su Emma Bonino. Ma non credo che questo problema ce l'abbia la Cancellieri, non credo che questo problema ce l'abbia Chiamperino. Quindi, cioè, se volevano qualcuno lo potevano benissimo sì, sì, trovare. Sì, sì, certo. Non è stato... Quindi io mi chiedo, no, si è parlato tanto di un presidente, condiviso, no, sempre questo aggettivo, condiviso, ma condiviso da chi? Di Unità Nazionale? Condiviso dai partiti o condiviso dalla popolazione? No? Il difficile era proprio questo, come ha scritto oggi La Stampa. Il problema è che la condivisione ormai è sia tra destra e sinistra, sia nei confronti dell'opinione pubblica. È questo che ha fatto saltare un po' i giochi, perché il PD e il PDL si sono posti il problema di trovare un candidato che andasse bene a loro due. Non hanno tenuto conto che questo candidato deve andare bene anche all'opinione pubblica. Certo. Non si può prendere un candidato che viene identificato o con una parte politica, vedi Prodi, o con la casta, vedi Marini, o vedi Amato, o vedi D'Alema, eccetera. Non è possibile. E quindi non hanno tenuto conto che c'era anche di mezzo l'opinione pubblica. E l'opinione pubblica ha pesato moltissimo anche sul PD, nel senso che ha fatto capire, poi sentiamo Luigi da Imperia tra pochissimo, mi pare che abbia fatto capire che un accordo col PDL non lo voleva la base del PD, o sbaglio? Sembra, ma dal proteste. Questo non è che ci voleva molto a capirlo, hanno dovuto essere invasi di messaggini e di manifestazioni per capirlo, ma sono persone che evidentemente vivono completamente fuori della realtà. Cioè, tra l'altro a me ha colpito molto la bassissima qualità morale di questo partito, perché queste persone che votano all'unanimità Prodi e poi lo impallinano nell'urna sono persone che non hanno il coraggio delle loro posizioni, non hanno il coraggio di dire a viso aperto quello che pensano. Perché durante la riunione del PD il giorno prima per decidere il nome di Prodi tutti avevano detto sì all'unanimità, proprio. E poi i franchi tiratori famosi. Ma sentiamo Luigi da Imperia all'800240024. Caro Luigi, grazie della pazienza. Scusate se io ripeto più o meno. Io potrei tenere la conferenza fino a stasera. No, ti prego, guarda, già abbiamo tempi. No, mi riallaccio, già lo pensavo prima, di sesso degli angeli. Sì. Ecco, perché si continua a parlare di sesso degli angeli, ne parlo voi giornalisti. Io ne parlo del sesso degli angeli, nel senso che nessuno ce l'ha. Già ne volevo parlare io prima. Ah, beh, allora guarda, è stata una telepatia pazzesca. È dell'araba fenice. Sì. Che ci sia, ciascuno lo dice, dove sia nessuno lo sa. Nessuno lo sa. E mi meraviglio che lì l'altro illustre ospite lì mi poccia Rodotà, perché dice che di parte e dice che andrebbe bene la cancellieri. Cioè, facendo un paragone, come paragonare Enrico Fermi a un professore di fisica della scuola media. Ma vi rendete conto? Tra l'altro la responsabilità di tutto questo, ancora nessuno si accorge che è a pari merito dei giornalisti e dei politici. L'ignoranza abissale, ma io dico, ma questa gente ha mai letto una riga di Platone, di Aristotele, di Polibio, di Cicerone? Lo chiedo a voi senza offesa, mi sapreste dire voi qualche opera politica di... Cosa dice qualcuno di questi di economia e di politica? Anche al vostro ospite, Aristotele. No, ma credo che Luca Ricolfi non abbia lacune in questo senso, caro Luigi, ma non è soltanto rifacendosi ai saggi, ai filosofi greci, eccetera, eccetera, romani e così via, che si possa risolvere, diciamo, un insegnamento. Poi veramente nella storia umana non si impara mai, lo vediamo anche da un mese all'altro, da un anno all'altro, anche in Italia. Diciamo che al di là di fare tutti questi arzigogoli, bisognerebbe certo ridare, lo diciamo da tempo, un po' più etica alla politica, un po' più di contatto, come si diceva, con l'opinione pubblica, con i cittadini, quelli che vivono quotidianamente le loro difficoltà, le loro istanze, le loro esigenze. Come diceva Luca Ricolfi, insomma, veramente i partiti ormai avulsi, sia per quanto ha riguardato la crisi economica finora, negata fino a poco tempo fa e mal gestita finora, ma anche capire veramente che c'è una popolazione stufa di tutte queste chiacchiere, di tutti questi dei privilegi, della casta, ma anche del temporeggiare, degli inciuci, del pensare ai loro interessi, anche le ruberie e tutto il resto. Insomma, questa cosa non si capisce. Sentiamo allora Cinzia da Trento. Sì, ciao Roberta. Ciao Cinzia. Complimenti per la trasmissione che l'ascolto dalle 6, per la tua trasmissione l'ascolto il sabato, tutti i sabati. Sì. E gli altri giorni l'ascolto tutti i programmi di Radio 24, dalle 7 di mattina fino alle 9 e mezza di sera. Proprio una dipendenza, il medico non ti ha detto niente, Cinzia. Così. No, niente. No, non me l'ha ordinato il medico. Perché no, ti ringrazio. Orale, siccome faccio un lavoro impegnativo, faccio la sarta, e sicché ascolto con le orecchie e lavoro con le mani. Bellissimo lavoro. Senti, ti dico a questo proposito, mi rubi, anzi, mi vediamo se ritrovo quella frase che la voglio dire tale quale. Eccolo qua, ha detto ieri Monti, nessuno meglio delle donne può rammendare il mondo. Io dico sì, se però gli uomini usano forbici, maceti, seghe, cose varie, bombe, sarà un po' difficile che donne possano rammendare il mondo, sempre mettere le toppe, no Cinzia? Il tuo è un lavoro bellissimo che sta scomparendo, tra l'altro. Sì. Dimmi no, pure, volevo Cinzia. Dire una cosa, sì. Roberto. Allora, il Papa si è dimesso, no? Sì, sì. Quando ha visto che non riusciva più Ratzinger. A gestire la situazione. Poi abbiamo avuto un capo di un partito che non voleva assolutamente dimettersi, anche se gli altri nomi e cognomi lo consigliavano. Chi dici, Bersani, che si è dimesso ieri, stai dicendo? Sì, no, ma prima non voleva dimettersi quando glielo chiedevano. E poi abbiamo un presidente che, poverino, anche lui, cioè io capisco che voglia salvare l'Italia, ma penso che forse uno più giovane la salderebbe meglio, capito? Cioè, quello che non riesco a capire, perché con tutta la buona volontà che può avere, ormai ha un'età che dovrebbe veramente fare il nonno. Cioè, Ci sperava, lui, ma a questo punto, insomma, ha detto, me l'hanno chiesto, spero che i partiti abbiano analoga responsabilità, direi io, bello auspicio. Cinzia, ti ringrazio moltissimo, effettivamente Napolitano poteva anche a questo punto legittimamente pretendere un po' di riposo. Luca Ricolfi, ma che ne pensi? L'elezione diretta, tanti continuano a dire, insomma, visto che sta diventando così centrale la figura del Presidente della Repubblica, facciamo la riforma della Costituzione e passiamo all'elezione diretta del Capo dello Stato. Tu che ne pensi? Ma sì, potrebbe essere una buona cosa, purché cambino anche le funzioni, perché a quel punto eleggiamo il Capo del Governo. Cioè, il Capo dello Stato, finché la Costituzione resta qual è quella attuale, deve assolutamente essere una figura sopra le parti. Se viceversa cambiamo tutto, facciamo come negli Stati Uniti o in Francia, dove il capo dello Stato è anche capo del governo, in sostanza capo del governo, allora va bene. Quindi presidenzialismo. E nessuno pretenderà di farsi rappresentare da qualcuno che ha vinto le elezioni contro qualcun altro. Cioè, le regole però vanno cambiate contestualmente, non si può cambiare solo un pezzetto, certo, lasciando tutto il resto invariato. Siamo d'accordo. Possiamo partire con un altro pianeta. Riflessioni da Marte. Che ragguardevole tumulto si è potuto osservare questa settimana quassù da Marte, puntando il fido telescopio, come sempre, sulla penisola italica. Anche altrove, malauguratamente, si sono visti rovesci tumultuosi, ma per altri motivi. Comunque, tutti gli onorevolissimi rappresentanti del popolo peninsulare, in qualità di grandi elettori, ma non si sa se di elettori grandi, erano solennemente riuniti laggiù, nell'emiciclo patrio, per eleggere il super capo, il capo di tutta la Repubblica nella sua interezza. Sembrava cosa fatta ancora prima di dar fiato alle trombe, ma forse i tromboni hanno suonato un po' troppo presto, chissà. Nulla di fatto, si dice, che vuol dire che non si è fatto nulla, tranne naturalmente andare a supplicare all'ultimo momento nonno Napolitano di pensarci lui. Vi ricordate la pubblicità gigante, pensaci tu? E questo che cosa vuol dire? Chi sono i colpevoli? I colpevoli di questo stallo, di un risultato che non è uscito finora dalla stalla, possono forse essere i diabolici hacker? O forse in questo caso è più facile che più che gli hacker i colpevoli siano gli acari. Già, perché immaginate quanto i famelici parassiti della polvere, gli acari per l'appunto, sguazzino gaudiosi al loro perfetto agio tra i polverosi scranni di polverosi politici che agiscono con polverosissime logiche. Qualcuno grida che sono stati violati i patti, ma certo sono anche volati i piatti. E nel frattempo la penisola langue, tanto che una famiglia su tre non manda i bambini dal dentista e sono tra l'altro ritornate di gran moda, quasi trendy, le cambiali. Insomma, tra la politica politicante, la crisi che morde, le donne ammazzate e ammanciate tutte le settimane senza che le istituzioni muovano un dito, anzi, si prospetta un paese di sdentati, perché chi non ha il pane di questi tempi non ha nemmeno i denti, di indebitati ancora prima di acquistare qualcosa e ancora prima di nascere, e con decisa penuria di donne vive in circolazione perché fatte fuori dagli uomini, oltre a quelle già assenti nei luoghi che contano perché fatte fuori metaforicamente dagli uomini che contano. Insomma, di fronte a questi magnifici orizzonti non resta che dire: continuiamo così, facciamoci del male. Ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono pistole e macchine, in Italia, Machiavelli e Foscolo, in Italia, i campioni del mondo sono in Italia, benvenuto in Italia, fatti una vacanza al mare, in Italia, meglio non farsi operare, in Italia e non andare all'ospedale, in Italia, la bella vita, in Italia, le grandi serate in gala, in Italia, fai affari con la mala, in Italia, vicino che ti spara in Italia. Ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità. Ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. Ritorniamo con i piedi per terra, va, che poi non c'è nulla di cui rallegrarsi, perché leggo adesso: dal Texas sale a 14 il bilancio delle vittime, ma sono almeno 60 i dispersi. Guai ovunque ci giriamo. E poi però il problema è quando i guai li si fa proprio per volontà e incompetenza. Daniele da Roma, all'800 24 00 24. Daniele. Buongiorno Roberta. Buongiorno a te. Salve. Dunque, io volevo fare una considerazione, diciamo, un po', come dire, informata. Allora, il motivo per cui è diventata così importante l'elezione del capo dello Stato, che una volta era più o meno un taglianastri, uno che diceva delle belle frasi a Capodanno, è proprio perché lentamente, nell'avvicendarsi dei vari capi dello Stato, la Costituzione è stata disintegrata è stata sostituita da quella che è chiamata la Costituzione materiale, che è fuori legge, da cui lo Stato è fuori legge, cioè quello che fa Napolitano e tutti apprezzano è fuori dalla Costituzione, perché il capo dello Stato si deve rivolgere al Parlamento tramite i messaggi alle Camere. Noi avevamo un candidato capace di fare questa cosa, che era Emma Bonino, la persona che avrebbe subito riportato il ruolo del capo dello Stato a quello che è la Costituzione scritta, non la Costituzione praticata. Per cui oggi il capo dello Stato è il garante dell'unità dei partiti, non il garante dell'unità della nazione. È chiaro che poi nascono tutti questi inciuci, queste cose. La verità è che tutti lo sanno che Emma Bonino non sarebbe mai stata manovrabile dai partiti e che avrebbe garantito, cattolici compresi, l'essere super parte, semplicemente perché non sarebbe andata a reti unificate tutti i giorni a esternare in televisione sui vari argomenti politici, cosa che non compete al capo dello Stato. Daniele, rimani. Io in realtà penso che Napolitano sia stato costretto a fare quello che ha fatto, proprio perché dicevamo, proprio nell'incapacità generale della classe politica di questo paese. Prima avevano bisogno di Monti, che poi dopo hanno sbeffeggiato con i suoi bei torti, con i suoi bei guai, ma anche, diciamo, con un'emergenza che almeno in parte è stata superata, e anche adesso lo vanno a richiamare. Io sono stata una grandissima fan di Emma Bonino, volevo comunque una donna al Quirinale, volevo una svolta davvero forte, simbolica, culturale, ma anche molto concreta. E forse proprio perché è considerata imprevedibile, o qualcuno dice appunto indipendente a seconda dei punti di vista, niente, poi anche per questo aspetto che lei dicono, c'è la famiglia cristiana che diceva i giorni scorsi è stata un abortista, è stata qui, è stata là, insomma, ha fatto le grandi battaglie civili di questo paese. Mi sembra che siamo indietro rispetto in tante cose ad altri paesi più avanzati di noi. Non doveva fare così paura Emma Bonino. Su Napolitano non sarei così dura. Luca Ricolfi, brevemente, cosa pensi di questa Costituzione, dice Daniele, praticata? Grazie Daniele. Ma secondo me Daniele ha abbastanza ragione, ma hai ragione anche tu, cioè non credo che Napolitano abbia fatto tutto ciò perché vuole forzare la Costituzione, però effettivamente l'uso del potere del capo dello Stato da parte di Napolitano è andato un po' oltre diciamo la prassi, la consuetudine, quello che ci si può aspettare da una Repubblica parlamentare. Questo secondo me è verissimo, però quello che forse Daniele non considera, anche se secondo me la sua analisi è giusta, è che la classe politica è andata talmente avanti nella sua degenerazione che un Presidente della Repubblica responsabile si trova di fronte al dilemma, cioè attenersi strettamente al ruolo che la Costituzione gli attribuisce, assistendo allo spettacolo di queste persone prive di ogni senso di responsabilità, di ogni senso delle istituzioni, oppure cercare di intervenire nella situazione, rabberciare i cosci rotti. E quello che sta però succedendo anche adesso, la cosa clamorosa è che i partiti glielo chiedono. Io temo però che la ragione per cui chiedono a Napolitano di restare è che gli unici nomi che sarebbero stati eleggibili in quanto rispettati da tutti sarebbero stati ancora più indipendenti di Napolitano e quindi molto meno condizionati dai partiti. Cioè, io penso che un partito come il PD o il PDL preferisce avere Napolitano che la Bonino. La Bonino è assolutamente imprevedibile, ma semplicemente perché non sta con nessuno a priori. È per questo che per me era un buon Presidente della Repubblica, anche proprio per me, perché è imprevedibile e non governabile dai partiti. Un'occasione persa. Ma andiamo al nostro prossimo appuntamento. Caro Don Severino da Potenza, in un flash il tuo pensiero di questa settimana. Ciao. In un flash. Diciamo, volevo dire questo, ecco, fermarmi un po' sulla situazione politica attuale, e volevo lanciare un allarme. Molti si meravigliano di quello che sta succedendo. Io credo che siamo indietro come nel 1924, quindi attenzione. Grazie, Don Severino. Grazie. Fa venire la pelle d'oca, fa preoccupare. E adesso, prima del prossimo appuntamento, vi aggiorno su la ministra Cancellieri, che ha detto bene la scelta di Napolitano. Apprezzo molto la sua responsabilità, persino a Cancellieri lo ha detto. E fra l'altro, nella pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni, avevo chiesto quale non vorreste assolutamente mai come Presidente della Repubblica, da D'Amato a D'Alema a molti altri, Prodi eccetera. Nessuno aveva citato Napolitano, nessuno immaginava che ci fosse stata questa svolta. Ma adesso andiamo a sentire invece la parola della settimana. In un flash chiedo anche alla nostra Valeria Della Valle, linguista della Sapienza di Roma, Franchi Tiratori, mi sembra che siano i protagonisti, sì, no? Sì, certo, Franchi Tiratori è proprio l'espressione di grandissima attualità, pur non essendo ovviamente non un'espressione moderna, ma già antica, che risale al 1870, quando i Franchi Tiratori erano i soldati irregolari che facevano azioni di guerriglia. Originariamente erano quelli che la facevano in Francia per difendere con loro imboscate, con azioni di guerriglia, per difendere la Francia contro i prussiani. Poi questa espressione, franc-tireur dal francese, è stata tradotta in italiano ed è stata usata negli anni 50 per i deputati, in particolare quelli, i democristiani, che nel segreto dell'urna votavano contro il governo sostenuto dal proprio partito. È naturalmente espressione di grande attualità in questi giorni. Ricordo però una cosa alla quale non si pensa quando si citano i Franchi Tiratori, che la parola franco vuol dire libero, dovrebbe voler dire libero. Ecco, non so quanto i Franchi Tiratori che si esprimono in questi giorni siano davvero liberi da controllo e imposizione. Chissà, lo vedremo solo vivendo. Lo vedremo a seconda di quello che succederà. Grazie Valeria Della Valle. Grazie, arrivederci. Grazie Valeria. E adesso corro velocissimamente verso Laura da Roma. Laura, molto sintetica, sì. Laura, grazie. È mezz'ora che aspetto, cara. Laura, lo so, tanta pazienza avete, però sì, concedimi. Sì, ma non c'è problema, per carità. Sì, in pochi secondi, perdonami Laura. Senti, sì. Allora, io dal 48 che seguo la politica. Ah no, pensavo ora è la 24. Prima volta, sì. Di questo grande schifo, perché Bersani non ha voluto mollare dal primo giorno, perché doveva lasciare Renzi, uno. E poi noi abbiamo Emma Bonino. Non la vogliono perché hanno paura, perché una persona retta, onesta, non è come tutto il resto che dovrebbero andare via. Vediamo se ci proviamo dopo Napolitano, che non dovrebbe durare 7 anni perché è detto per un incarico breve. Vediamo un po' come andrà. No, ho capito, ma meglio di stare in mezzo alla mondezza è molto meglio Napolitano. Beh, certo, a questo punto. Spero però faccia le cose velocemente. Grazie Laura. Perché oltre alla Bonino, ma c'è anche Rodotà, c'è la Cancellieri. Sono tre persone degnissime, come si diceva vogliono. Prima Laura, ti ringrazio, guarda, scusami, ma tra poco mi si apre la botola sotto la sedia. Fra l'altro vedo che ci sono manifestazioni davanti a Montecitorio, persone che gridano Rodotà, Rodotà. E senti, a proposito, Luca Ricolfi, che ne pensi proprio in pochi secondi di due personaggi molto in vista in questo momento, che siamo quelli vincenti, da una parte Renzi e dall'altro Grillo? Proprio un flash su ognuno di loro, sono molto telegrafica. Sì, su Grillo e su Renzi? Sì, scusami, molto breve. Grillo si comporta come era prevedibile e fa la sua parte, che secondo me non è completamente negativa. Tutto sommato il fatto che ci sia un partito, un movimento che in Parlamento ha anche delle funzioni di controllo va benissimo. Renzi? Il problema di Renzi è che sta facendo una parte abbastanza bruttina, cioè io... Anche per me un po', Senti, Luca Ricolfi... Sono abbastanza deluso dal comportamento in questa vicenda. Anch'io. Vedo che ritorna l'abigeato, il furto di bestiame in Italia nelle chiese, rubate capre e pecore. Io dico, con il ritorno dell'abigeato, si ammazzano donne continuamente, classe politica immobile. Dove stiamo andando in questi 20 secondi, Luca Ricolfi? Dacci un messaggio di speranza. non vi posso dare nessun messaggio di speranza. Sentivo, infatti, anche perché cambiate continuamente argomento e quindi... Sono io che sono così molto elettrica. Grazie Luca Ricolfi e da Roberta Giordano, Sereni Orizzonti. A tutti.